voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Mi ricordo le canzoni, è facile. Cioè, ho cantato prima Avanti Poco, ricordate, Avanti Poco, poi Bianco Natale, quella dedicata a Natale e Volare a Destra. E quella dei fratelli? Qual è quella dei fratelli? Quella che erano fratelli. Ah, quella dei fratelli, sì, avete ragione. Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente a questa qua, l'ho scritta in un momento così, no, di, che mi piaceva la fratellanza, così. Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia si rivela. Meli! Oma Meli! Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Close. Profumo di eclettica. We'll be right back. Secondo profumo di eclettica della settimana e secondo salto indietro nel tempo fino al 2001, esattamente come due eclettica fa siamo andati dalle parti dei 6x7, in questa eclettica invece siamo appena stati dalle parti degli Aerogram, quartetto di Glasgow che aveva esordito nel 2001 con A Story in White per la Chemical Underground, per cui stanno per uscire anche con un nuovo disco. Post Tour Prejudgment, il brano che ci siamo ascoltati, ed era il secondo dei 10 che erano contenuti in quel disco che tanto in quell'anno fu trasmesso in eclettica. Invece, in apertura di questa quarta parte, dopo un estratto, l'ennesimo estratto dal film della settimana, che era stato anche il film della settimana scorsa, ma c'erano troppi pezzi belli di quel film, non potevo che così sbordare la seconda settimana con Non ci resta che piangere. Appunto, dopo quell'estratto ci siamo ascoltati Postcards from Italy da Gulag Orchestra di Beirut, mentre su MySpace vi state ascoltando tutte le volte che andate all'indirizzo www.myspace.com/eclettica il brano di Beirut intitolato Mount Rockley. Mi sono accorto proprio ora che sto dicendo invece una grande cavolata, perché da qualche giorno ho sostituito quel brano con un altro brano di Ramona Cordova, quindi vi potevate ascoltare Mount Rockley fino a qualche giorno fa. Cercherò di essere molto dinamico anche nel sostituire il sottofondo per chi si aggira dalle parti di MySpace. Ed ora proseguiamo con musica che proviene in questo caso direttamente dalla Francia, ma è solo un passaggio, perché originariamente questa musica, ma sì, diciamo che passava anche dalla Russia, ma arrivava da Liverpool. Ecco come Manuel Santa Romana rende omaggio ai Beatles. It's all quando comporranno il mio necrologio, domani o dopodomani, scriveranno: Leo Gursky lascia un appartamento pieno di merda. Sono sorpreso di non esserci rimasto sepolto vivo. Il posto non è grande. Faccio fatica a tenere sgombro un passaggio fra il letto e il bagno, fra il bagno e il tavolo della cucina, fra il tavolo della cucina e la porta d'ingresso. Se voglio andare direttamente dal bagno alla porta d'ingresso, impossibile, devo passare accanto al tavolo della cucina. Questo era l'incipit di La storia dell'amore di Nicole Krauss. Stuff, there's noise and the roar I'm in. I have a hard time to really begin. Begin this walk towards the heart of things, yeah. To see clearly what today might bring. I see you tall and strong in front of me. Your ideas are so bright and free. Intentions that are wings to fly. Leave me so dangerously high. Goes out to you. Sometimes I ask myself what I'm doing here, doing what I do. Try to figure out the right and to be good and true. Be present here with my friends and my family. Oh, being right here in the moment, today tonight. This goes out to you. This goes out to the fours of praying. This goes out to you. I've seen a brighter, I've seen a brighter, I've seen a brighter, a brighter kind of blue. I've seen a brighter, I've seen a brighter, a brighter kind of blue. I've seen a brighter, I've seen a brighter, a brighter kind of blue. I've seen a brighter, I've seen a brighter, a brighter kind of blue. This goes out to the voice I'm praying. certo periodo si era addirittura detto che non avrebbe più fatto musica, aveva lasciato l'Italia, era ritornato nella natia Norvegia e per un po' non si era sentito più niente di lui. Poi qualche notizia positiva che ritornava e alla fine queste notizie positive sono state confermate dall'uscita, sempre per l'italiana Stout Music, del nuovo disco di Tarja Norgarden, che sembra aver tolto il nome dalla sua ragione sociale artistica, si presenta solo con il cognome Norgarden e Brighter Kind of Blue, il titolo dell'album, come anche del brano che ci siamo ascoltati. Avendolo registrato a Oslo, non compare nei credits di copertina Paolo Benvenu, come invece compariva nel suo disco d'esordio. E senza usare giri di parole, direi che il primo disco era più bello, sicuramente più bello. C'erano alcune canzoni che ti si attaccavano addosso e più non ti lasciavano. Giulio Caperdoni, che è quasi arrivato anche alla fine di questa seconda settimana della nuova stagione di Eclettica, vediamo di ascoltare un brano che è bello come il disco. Molto spesso per artisti come quelli in questione, che esistono dal 1987, quando escono dopo tanti anni dal loro esordio con una nuova prova, si dice che se il disco non fa proprio schifo è un disco dignitoso. Ecco, in questo caso invece è un bel disco, un bel disco come quello di un gruppo all'esordio. E non è che tutti i dischi degli anni scorsi rientrassero comunque in questa categoria, qualche disco dignitoso l'avevano fatto anche loro. Sto parlando degli UZ, che per Touch and Go e sempre con la collaborazione di Steve Albini sono usciti nel mese di settembre con Stella, dal quale ci ascoltiamo Camillo. We'll be right back. stavano già lì, se non ci trovava nessuno l'aveva scoperta lui, ma c'era già gli indiani, no Mario? È come se io ora vado in Puglia e dico, la Puglia, o pugliesi, sono 2000 anni, stanno lì, lo sapranno, c'è la Puglia, invece no! Con Shaun Lee si chiude quella che è la quarta parte di Eclettica di questa seconda settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, disponibile via etere, ovviamente, è da lì che è nato tutto, poi anche via satellite, via internet in streaming, via podcasting e anche su MySpace. Lì è uno spazio che, a differenza della trasmissione, è più vostro. Senso è mio, sì, ma è lì per voi. È il foglio bianco di cui parlavo quando ho lanciato www.myspace.com/eclettica. Soul Visa, il disco uscito il 4 di settembre da parte di Shaun Lee per la BBE Records, Barely Breaking Even Records. E il brano che ci siamo ascoltati non è la versione dell'album, ma in una versione Psap Remix, Mary Jane, con cui si chiude Eclettica. Vi ricordo i biglietti per OK Go, Final Fantasy e Forward Russia. Scrivete a Giulio at RadioRockFM.com se potete vincerli, o meglio se volete vincerli, e alla prossima!